and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Due adulti all'asilo, perché oggi l'Italia è piena di persone mature che però si comportano esattamente come dei bambini, quindi uno più uno meno è uguale. Allora, cari bambini all'ascolto, preparatevi che oggi parleremo di libri. Ma Drago, ma sempre con sti libri. No, quando mai non abbiamo mai parlato di libri finora? Non importa, all'asilo non si legge, ci sono le figure, al massimo si disegna. Ma il libro di cui voglio parlare va anche bene per i bambini, è facile, ci sono tante figure anche, beh, copertina, sì? No, poi dentro no, però la copertina è divertente. Che libro è? È quello di Sophie Kinsella, sai quella di I Love Shopping? Ah sì, certo, la Bibbia della donna moderna, cioè della bambina moderna. L'unica cosa da fare è comprare una nuova borsa. Ce l'avrai una borsa da qualche parte? Su, non aprire quell'armadio! Ecco, questo era un campione dal film bellissimo I Love Shopping. Poi ci sono anche libri che hanno continuato bellissimo. La saga, l'ultimo dei quali si chiama I Love Mini Shopping. Perché parla appunto dei bambini. Infatti Becky Bloomwood ha avuto una bambina, adesso ha 2 anni. Sì? Becky Bloomwood, la compratrice compulsiva, protagonista appunto dei libri della Kinsella, no? Sì. Adesso Becky è una bambina di 2 anni che si chiama Minnie, che è uguale alla madre, grida "Mio!" a ogni capo d'abbigliamento della sua taglia che vede nelle vetrine. Ah, come la canzone di Morandi. Eh? Che bello il cappottino, col freddo che fa, me lo compri papà? Sì. Che bella la pelliccia, col freddo che fa, me lo compri papà? No. Come no? No. Ma perché? Perché no, e quando è no, è no. No is no, no is always no. If they say no, it means 1,000 times no. Vedi, Kappa, bisogna saper dir di no ai bambini. Come quando eravamo piccoli noi, non è che uscivamo di casa e tutto quello che volevamo ce lo compravano, anzi, no? No? Adesso invece è così, che i genitori e i figli sono uguali, quindi quando i figli hanno delle pretese, i genitori non sanno dire di no. No. E vai a casa della gente e entri in appartamenti pieni di giochi elettronici carissimi, come non so, come un grande magazzino. No. No, scusa, dicevo no perché bisogna dir di no, hai ragione. Non dire di no a me. Io andavo con mia madre e chiedevo tutto, merendine, caramelle, gelati. Solo roba da mangiare. No, poi anche le macchinine, i soldatini, i giochi elettronici, i fumetti. Niente vestiti? No, vestiti, sì, soprattutto scarpe, scarpe. Scarpe? Eh beh, sì, le scarpe fanno l'uomo. Ma se eri un bambino? Vabbè, Tito, dai. Vabbè, comunque, gli acquisti compulsivi danno sì una spinta al mercato, care donne, però rovinano anche centinaia di famiglie. E la famiglia è un bene prezioso, lo dice anche il nostro amico bambino Pierferdi. Casini. Meno tasse quando ci sono più figli. È un concetto molto semplice e chiaro per dare ossigeno alle famiglie italiane. Quelle famiglie che oggi stanno resistendo alla crisi sono il grande ammortizzatore sociale della crisi, ma poi ce le dimentichiamo. Però, Drago, sta roba di I Love Shopping della Kinsella è roba straniera. In Italia non abbiamo quel tipo di problemi. Beh, anche da noi però ci sono purtroppo le scrittrici di chick literature, no? Di? Chick literature, cioè la letteratura per le donne, però... per donne non come quelle degli anni 70 che avevano una coscienza, per donne così interessate solo al consumismo. Noi abbiamo, che ne so, la Guglia Soncini o la Maria Luisa Rodotà, no? Rodotà? Rodotà, sì. Rodotà? Ma Rodotà è quello della privacy. Sì, ma no, questa qui è la figlia di Rodotà, quello della privacy. Ma come? Lui tutto serio, bipartisan, che mette d'accordo destra, sinistra, sotto, sopra, davanti, dietro, e la figlia scrive la chick literature. Chick literature, ma sai, la famiglia è così, a volte va bene, a volte va male. Rodotà, quello della privacy, tra l'altro, è proprio uno di quelli in prima linea contro la regressione. Senti qua. Io penso che noi viviamo una regressione. Una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Vabbè, comunque ormai queste qui sono cose che dicono tutti, dai. Tutti, le dice Rodotà, le diciamo noi qui a Chiedo Asilo. Ma no, ormai lo dicono anche i bambini. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Questi sembrano bambini. Oh, voglio che giochino con me. Perché il tempo non può andare più in fretta? Secondo voi quanti ce ne sono là fuori? Oh, sembrano adorabili. a volte basta sfogliare il magazine del sabato di un quotidiano, che ne so, Io Donna, no? E trovi conferma alla nostra teoria dell'infantilismo. Guarda qui la storia di Stella Stellina, non so se anche tu l'hai notata. Chi? Stella Stellina. La notte si avvicina? Sì. La mucca nella stalla? Sì, purtroppo no, purtroppo no. Non è quello, non è un cartone animato, nemmeno una canzone di De Gregori. Anzi, una canzone una di De Gregori, no. Sì, nemmeno una filastrocca. Nel nostro caso, Stella Stellina è il soprannome che si è data una signora di 40 anni, di Milano, che si chiama Maria Famà. E sai che questa signora fa la contabile, è una tipa sportiva, quindi ha un fisico molto integro e fa parte delle All Star Milano Cheerleaders. Cioè è una cheerleader, sì, a 40 anni. Tu sai cos'è una cheerleader, non no? So, sì, è la majorette. Majorette, cheerleader di 40 anni, majorette di 40 anni, quello è il punto. Io non discuto che la signora Stella Stellina dimostri meno degli anni che ha, ma è proprio l'idea che discuto, l'idea di infilarsi quel completino bianco e rosso a 40 anni e far tutte quelle mossettine idiote, ma ti sembra? Beh, poi c'hanno anche il bastone, no? Da far girare in aria, lanciare. Vabbè, ma che male c'è, scusa, se si divertono. L'unica cosa è che le cheerleader in Italia non hanno un nome. Come no? Eh si no, chiamano come si dice? Ragazze pom-pom. Ma come? Pom-pom? Pom-pom o pom? Vabbè, non lo so, forse pon-pom. Vabbè, cioè... Tito, su, insomma. Dai, insomma si regia... Secondo me in italiano si chiamano majorette. Ma quella è francese. Ah già. Comunque guarda che è una cosa seria, fare la cheerleader in Italia. Sì, la majorette. La majorette, va bene, è una cosa così seria che hanno pensato bene di fare una federazione italiana delle cheerleader. E sai come si chiama? No. Si chiama FICAD, che è l'acronimo di Federazione Italiana Cheerleading Dance. E cosa fanno tutto il giorno? Ma chi? Ma quelli lì, gli impiegati della FICAD. Non lo so. Proviamo a chiamarli. O a chiamarle. Eh sì, è FICAD. Pronto? Con chi stiamo parlando? State parlando con Jennifer Lechner, la portavoce della Federazione Italiana Cheerleading. Ecco, allora il numero è giusto. È giusto. Noi ci stavamo chiedendo, io e K, che cosa fa tutto il giorno una cheerleader che fa parte della FICAD, cioè della Federazione Italiana Cheerleading Dance? Una classica cheerleader si sveglia la mattina presto, fa una colazione sana sana, va al lavoro o va a studiare, perché fare la cheerleader non è niente che fai a full time. Non si va nell'ufficio delle cheerleader, si indossa l'uniforme e si va a lavorare, sarebbe con bello. Con i pom-pom, no. Sì. E poi la sera, qualche volta alla settimana, ci troviamo e facciamo allenamento. Dove? In una palestra? In una palestra, poi se c'è una palestra con i materassi siamo ancora più contenti, così c'è anche più sicurezza, prima possiamo fare i salti più grandi. Quindi tutta la sera lì a dire datemi una F, datemi una I, datemi una C, datemi una A, datemi una D. No, la D no. No, vabbè. No, quello non si usa molto, forse. Come? Questa è l'immagine un po' vecchia della cheerleader. Ovviamente ci sono dei tifi che uno fa per la squadra, come fanno anche i tifosi. Tipo? Give me an M, give me an I, give me an L, A, N, what's that? Milan. Che bello. One more time, Milan. Io ho detto Milan perché va bene. No, Milan, io sono interista, però non importa. Bello, ma senti, Jennifer. Possiamo anche dire Inter. Ecco, no, lasciamo perdere. Ma senti, il Jennifer, calcio, noi ci stavamo chiedendo, ma le cheerleader sono tutte ragazzine o ci sono anche donne più mature? Sì, a Milano abbiamo letto di una cheerleader di 40 anni. 40 anni, che ci sembra una cosa francamente sbalorditiva. Per quello ovviamente questa era un'eccezione, perché una ragazza, diciamo, che è molto in forma. Una? Una non ragazza, abbiamo capito, una ragazza. È una donna. Ah, ecco. Sì, una ragazza. Insomma. È una donna, ma per me è una ragazza, perché è un fisico da una di 18 anni. Ma siamo ormai tutti bambini, Jennifer. Sì, ormai, per sempre. Per sempre, sì. E soprattutto quando uno fa il cheerleading, perché è molto divertente come sport. Quindi si ritorna serio, bambini. Allo stesso tempo. Beh, c'è anche cheerleading per i bambini da 9 anni in su. Infatti la Federazione Italiana Cheerleading adesso sta anche entrando nelle scuole e stiamo facendo i corsi per i bambini, soprattutto per le bambine. Chiederemo qui all'asilo di cominciare anche noi un bel corso di cheerleading. Vedo Drago già che si sta preparando. Io nell'uniforme starei benissimo. Sì, anche secondo bene, me. Bene, sono contenta. Senti Jennifer, avremo solo una piccola domanda che non riusciamo a spiegarci. La categoria del porno riferita alle cheerleader è qualcosa che vi rovina la reputazione? Credo che mostrando che uno sport è serio, dopo un po' la gente non ci chiama più ragazze pompon e soprattutto non pensa al porno. Un programma di Carlo. vediamo domani. E mandate i vostri pompon a chiedoasilo@radio24.it.